Il punto di Stefano Folli. La riforma della giustizia è cosa molto seria, ovviamente pensando all'immenso numero di cittadini italiani che non la ottiene. Se ne parla da anni senza mai fare un passo avanti, ma non sarà certo con l'emendamento fatto passare dalla porta di servizio del PDL che lo scrigno si aprirà. In questo modo la riforma, solo evocata, continuerà a essere quello che è sempre stata, una bandiera nello scontro politico e ideologico fra due schieramenti avversari che si trovano oggi in modo assai poco convinto a condividere una maggioranza. D'altra parte è anche curiosa l'insistenza del centro-sinistra nel dire che no, la riforma della giustizia non fa parte del programma concordato. Sarà anche così, ma il tema esiste e si staglia come un monumento all'inefficacia inconcludente della classe politica. Comunque non se ne farà nulla, nessuna formula politica, nemmeno una grande coalizione, sembra in grado di ottenere un qualsivoglia risultato positivo.